Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Andate sul computer e cercate Chiesa Cattolica su Google. Al di là di tanti siti cristiani che popolano il web, vi imbatterete all'interno dei gruppi di discussione e all'interno dei social network in un gigantesco sottobosco di stereotipi, accuse e attacchi più disparati verso la nave di San Pietro. E così, nel mondo del web c'è chi ricorda ogni volta il tragico capitolo dei preti pedofili, chi propone insinuazioni che vorrebbero la Chiesa nascondere segreti misteriosi come nei romanzi di Dan Brown, dal Sacro Graal all'esistenza degli extraterrestri. Ci sono poi le accuse alla Chiesa, tra l'altro dimostratesi false, di finanziare fabbriche d'armi come la Beretta e interi siti dedicati al capitolo economico. Alle tasse pagate, alle tasse non pagate, all'8 per mille, all'ICI, all'IMU. Ora, al di là di tanta confusione tra Vaticano e Conferenza Episcopale Italiana, tra materie di extraterritorialità e qualche bufala ripetuta così tante volte da divenire reale, c'è davvero un problema nel nostro paese dei privilegi della Chiesa? Qualcuno ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare. Ma qualcun altro, Voltaire per la precisione, gridava esecre l'infame. Raccontate, in poche parole, anche le bufale pur di schiacciare l'infame, la Chiesa Cattolica, per lui infame. Forse è meglio andarci coi piedi di piombo, ma domandiamoci: è vero che le attività commerciali di proprietà della Chiesa, pensiamo alle librerie cattoliche, non pagano le tasse? Ed è giusto che gli asili parrocchiali, con bilanci tutti in perdita tra l'altro, paghino ai comuni ogni anno 10 e passa mila euro come una tabaccheria o un panificio qualsiasi? Ci sono zone grigie e confusioni legislative per cui una mensa dei poveri si ritrova a pagare 9.000 euro di ICI all'anno e magari un hotel di lusso nemmeno una lira? E questa discussione può essere l'occasione per la Chiesa di dare l'esempio alla società civile? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. L'autonomia reciproca della Chiesa e della comunità politica non comporta una separazione che escluda la loro collaborazione. Entrambe, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione personale e sociale dei medesimi uomini. La Chiesa ha diritto al riconoscimento giuridico della propria identità, al fine di prevenire o attutire possibili conflitti tra Chiesa e comunità politica. L'esperienza giuridica della Chiesa e dello Stato ha variamente delineato forme stabili di rapporti e strumenti idonei a garantire relazioni armoniche. Tale esperienza è un punto di riferimento essenziale per tutti i casi in cui lo Stato ha la pretesa di invadere il campo d'azione della Chiesa, ostacolandone la libera attività fino a perseguitarla apertamente o viceversa, nei casi in cui organizzazioni ecclesiali non agiscano correttamente nei confronti dello Stato. È con noi Guglielmo Frezza, direttore del settimanale diocesano di Padova La Difesa del Popolo. Grazie per essere con noi. Grazie a te Andrea per l'invito e un saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori. Di solito esordisco, tanto per mettere a loro agio gli ospiti, con le domande brutali. La Chiesa paga le tasse? Ma insomma, diciamo che non mi pare che sia una domanda particolarmente brutale, o perlomeno la risposta è semplice. Sì, la Chiesa paga le tasse, tutte le tasse, magari oggi ci concentreremo in maniera particolare sulla ex ICI, oggi IMU, ricordiamo poi che sono anche molte altre le voci di tassazione. Paga le tasse, lo fa in maniera trasparente. Io ricordo che esattamente un anno fa, quando scoppiò un po' il polverone attorno all'ICI, come diocesi, attraverso il settimanale diocesano, abbiamo pensato che il modo migliore per rispondere a tutte le accuse che tu hai giustamente e puntualmente ricordato fosse proprio quello di fare un'operazione verità, utilizzando La Difesa del Popolo, per raccontare ai padovani e sgombrare così il campo da tanti equivoci quanto paga la nostra diocesi di ICI. Al di là dei dati, ecco, che potrebbe ripeterci un attimo quelli venuti fuori nel dicembre del 2011, ci sono o ci sono stati dei privilegi? Ovvero, questa polemica nasce da qualcosa di concreto oppure è completamente campata in aria? E mi riferisco per esempio alla diocesi di Padova. Partiamo dai dati, che è sempre la cosa migliore. Sono dati riferiti al 2010. Allora, se noi mettiamo assieme tutti i vari soggetti che compongono poi nell'immaginario collettivo l'ente diocesi, i dati ci dicono che tra struttura centrale e 360 delle 459 parrocchie della diocesi, di cui siamo riusciti ad avere tutti i dati, l'ICI pagata nel 2010 è stata pari a 660.246 euro, quindi direi assolutamente una cifra di rilievo. Al cui interno poi ci sono le posizioni più disparate, ad esempio l'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, che amministra il patrimonio pervenuto dagli ex benefici parrocchiali, ha pagato più di 300.000 euro di ICI, ma come ricordavi tu nella tua introduzione, siamo al paradosso per cui le cucine economiche popolari versano ogni anno 9.000 euro di ICI, salvo poi magari ricevere altrettanto dal comune come forma di contributo deliberato in consiglio comunale o dalla giunta per il lavoro sociale che fanno. Le librerie cattoliche pagano l'ICI certamente al pari di tutti quanti gli altri esercizi commerciali. Ad esempio si tratta di oltre 2.000 euro per quanto riguarda i locali in Piazza Duomo, che i padovani conoscono bene, affittati esercizi commerciali, c'è una pasticceria, un fotografo, una libreria, un'agenzia di viaggi e così via. Tu mi domandavi se ci sono stati dei privilegi. Noi l'anno scorso l'abbiamo chiesto all'economo diocesano Dorino Pittarello, tanto per avere un parere informato, che ci ha risposto una cosa molto chiara. Bisogna distinguere innanzitutto tra diocesi, come ad esempio quella di Padova, e la situazione molto specifica di Roma, che poi è quella che di solito finisce nell'occhio del ciclone. A Roma dobbiamo ricordare che c'è un patrimonio immobiliare di considerevole dimensione, che però è di proprietà del Vaticano e dunque gode della extraterritorialità ai sensi del concordato e non è soggetto a ICI. Poi naturalmente è vero, lo riconosceva lo stesso Dorino Pittarello, ci sono delle situazioni in cui magari giocando sull'ambiguità delle norme si è finito per dare adito a delle polemiche che in parte possono anche non essere considerate pretestuose, e non a caso dal mondo cattolico, l'anno scorso lo fece il Cardinal Bagnasco in maniera autorevole, si è sempre detto rivediamo la formulazione, se ci sono delle zone grigie, se c'è la possibilità di equivoci, facciamolo in tutta onestà, facciamolo però senza strumentalizzare, perché i dati, ripeto, ci dicono che le nostre chiese lì ci la pagano in maniera salata. Quindi al di là di qualche zona grigia che sembra ci sia, la situazione globale è assolutamente diversa da come è stata descritta nei giornali. Assolutamente, è assolutamente diversa la situazione. Che poi ci possa essere qualche zona grigia, ripeto, in gran parte è dovuto alla situazione molto specifica di Roma, della Città del Vaticano. Attenzione a non confondere, tu l'hai fatto giustamente, un conto è il Vaticano, un conto è la Conferenza Episcopale Italiana, un conto è quella Chiesa che è parte del territorio, dello Stato, del popolo italiano e che in quanto tale rispetta le leggi assolutamente come tutti gli altri cittadini o tutti quanti gli altri enti. Ci fermiamo qualche istante, direttore, e torniamo tra pochissimo dopo una breve pausa. Il bene di tutti, parliamone. C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene. Andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue. C'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella. E se ci va, magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare. E poi nuotare, fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla. Sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. sa, tutto è già passato. Peccato che non l'ho ancora capito, anche se non sei più tra le mie dita, stanotte la ricorderò tutta la vita. E se domani sentirò la tua mancanza, sarà perché non ho più cielo nella stanza. Avrò una foto per ricordare di quando quella notte ti potevo dire. Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone. Siamo qui in studio con il direttore della Difesa del Popolo Guglielmo Frezza e stiamo affrontando il tema della famosa ICI, ormai IMU alla Chiesa. È vero che la Chiesa non paga l'IMU oppure la paga? Perché queste polemiche? Perché questi attacchi? E perché anche a volte magari possiamo anche arrivare a dire perché queste mistificazioni? Prima il direttore mostrandoci una copia della difesa del dicembre 2011 ci ha mostrato tutte le bollette, i pagamenti dell'IMU della diocesi di Padova, ma che sono similari chiaramente a molte altre diocesi italiane. Ma a fronte di questi dati, da dove nasce questa polemica? Se i fatti sono questi, arrivo a malignare, ci sono dei fini reconditi di questa campagna? E perché questo stereotipo così continuo, così martellante, percepito sia dalle parole dei politici che ci tengono continuamente a rimarcare la loro presunta laicità con queste affermazioni, e sia delle barzellette del web? Allora, io credo che qui si tratti di fare un po' di chiarezza ad uso anche dei nostri ascoltatori. Mi scuso magari se in qualche passaggio sarò un po' pedante. Alla fine nessuno mette in dubbio che una chiesa non è tenuta a pagare l'IMU o l'ICI in quanto edificio di culto. Dove si concentrano le polemiche? Su tutte quelle attività che vengono ritenute avere un fine commerciale, e qui ci può stare dentro di tutto. L'ultimo regolamento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su sollecitazione dell'Europa ha cercato di stabilire quali sono all'interno del campo di attività degli enti no profit gli esercizi, le attività che possono essere considerate non commerciali e quelle che possono essere considerate commerciali. E qui ci dovremmo addentrare in una specificazione molto, molto precisa. Ma tu mi domandi da dove nasce tutto questo. Noi l'abbiamo chiesto nelle settimane scorse, perché è un problema che non riguarda solo la Chiesa, attenzione, ma tutto il mondo del no profit. Che cosa ci è stato risposto da molti esponenti dell'associazionismo? Qui in realtà, dietro a tante polemiche agitate in maniera pretestuosa in Italia, c'è però una impostazione comunitaria che ritiene essere commerciale qualsiasi attività dove c'è un passaggio di soldi. In qualche modo si tende ad aziendalizzare tutto, e facendo questo non si tiene conto però di una specificità che è tipica della tradizione italiana, dove sappiamo che grandi parti del welfare, dell'aggregazione anche giovanile, dello sport, sono nati per iniziativa del cosiddetto privato sociale, cioè delle nostre comunità, con fini volontaristici di miglioramento della situazione sociale e culturale del paese. Dopodiché c'è un passaggio di soldi perché ti iscrivi ad una società sportiva? Allora il rischio è che se quella società sportiva possiede una palestra, deve pagare l'IMU esattamente come un centro fitness, che magari ha dietro una società per azioni. C'è passaggio di soldi perché tu chiedi una retta ad una famiglia per mandare il bambino alla scuola materna? Ecco che si rischia di incorrere nella scure dell'Unione Europea. Ripeto, è un'impostazione culturale che non tiene conto della natura specifica di una dimensione italiana, ma che poi in Veneto ha una tradizione straordinaria, e così rischia di penalizzare doppiamente la Chiesa per tutte le sue attività, ma più nel complesso l'intero mondo del no profit e dell'iniziativa sociale dei cittadini. Infatti si parla di IMU alla Chiesa, però magari non l'abbiamo ricordato all'inizio della nostra trasmissione, qui non si parla di IMU alla Chiesa, in quanto in questi articoli e in queste leggi non viene mai menzionata nemmeno esplicitamente la Chiesa, ma si parla di no profit in senso generale, per cui l'associazione di volontariato, il centro sociale, il sindacato, il partito politico. C'è tutta una realtà che è al di là, insomma, di quest'idea aziendale. Però parliamo di Europa, e l'Europa dice esiste solo il no profit puro, per cui se do un euro è commerciale, ed esiste il modello aziendale. Però è la stessa Europa che ha un approccio completamente diverso rispetto all'approccio italiano per quel che riguarda le scuole paritarie. Io penso agli asili parrocchiali, quest'anno è stato un florilegio non solo per voi della difesa, ma basta dare un'occhiata ai siti internet e ai bollettini parrocchiali, e insomma si viaggia attorno ai 20.000 euro di perdita medi per una scuola materna da 100-120 bambini. Potrebbe rappresentare la mazzata finale questa? E cosa può fare l'Italia, non lo so, per sostenere queste realtà? Perché se dovessero chiudere domani tutti gli asili parrocchiali, sarebbe una mazzata gigante non solo per i bambini, ma anche per quel famoso diritto al lavoro delle donne, che si ritroverebbero a dover badare i marmocchi e non inseguire le proprie carriere. Sì, in Veneto poi questo problema lo viviamo in maniera forse anche più accentuata di tante altre regioni, perché dobbiamo considerare che nella nostra regione il numero di bambini che frequentano le scuole materne, che sono nate all'interno delle parrocchie oppure sono gestite da cooperative di genitori o da associazioni, è molto più alto di quello che frequenta le poche scuole materne statali che esistono sul territorio. Stiamo parlando di un problema che riguarda 60-70 mila famiglie. Allora, tu giustamente ricordavi che le nostre scuole materne già oggi sono in passivo. Spesso vivono grazie alla generosità delle comunità che si fanno carico di integrare i pochi contributi che arrivano dallo Stato, dalla Regione o dai comuni, e le rette delle famiglie con tutta una serie di iniziative. Abbiamo calcolato a spanne insieme al presidente regionale della FISM che l'IMU potrebbe incidere nella misura di 10-15 euro al mese a bambino. Significa per una scuola materna con 100 bambini 10-15 mila euro annui. Attenzione, non a carico della scuola, ma a carico dei proprietari dell'immobile, ovvero delle nostre parrocchie. E qui davvero noi rischiamo di aprire delle voragini. Saranno in grado le nostre comunità, già fortemente sollecitate non solo in questo campo ma in molti altri, di farsi carico anche di questa ulteriore spesa per assolvere poi a un servizio che va a beneficio dell'intera comunità? È chiaro che abbiamo questo paradosso. L'Unione Europea da un lato ha ben chiaro che cosa è commerciale e che cosa è non commerciale, e individua in un qualsiasi passaggio di denaro il criterio dell'essere ente commerciale. Dall'altro però, se noi andiamo a vedere la legislazione di tutti i principali paesi europei, anche quelli che potremmo definire più laici, vediamo che le scuole private sono finanziate esattamente al pari delle scuole statali. È chiaro che allora in questa situazione non si dà la necessità di chiedere una retta alle famiglie. In Italia invece noi non solo abbiamo una legge del 2000 che ha definito che il sistema di istruzione pubblico è fatto con pari dignità di scuole statali e scuole paritarie, ma abbiamo a tutt'oggi un diritto negato delle famiglie che, oltre a pagare le tasse, sono costrette a pagare una ulteriore tassa, che è quella di iscrizione, nel momento in cui vogliono per motivi personali scegliere una scuola paritaria o anche semplicemente per la mancanza di strutture pubbliche mandare il proprio figlio ad una scuola materna. Ecco il grande paradosso che la nostra politica si dimentica, continuando invece a riempirsi la bocca di stereotipi sulla Chiesa che non paga le tasse. Ringraziamo il direttore per questo suo intervento, chiaramente speriamo anche nei prossimi mesi che venga fatta un po' di chiarezza e che si riesca da una parte a garantire l'equità chiaramente della tassazione, che è giusto che venga stabilita, ma nello stesso tempo salvaguardare una realtà di sostegno allo Stato che è rappresentato da una rete fittissima di scuole paritarie, in particolare le scuole materne e soprattutto nel nostro territorio del Nord-Est. Grazie direttore per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi, cari ascoltatori, ci troveremo nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito. Potete contattarci mandandoci una mail a redazione @bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.